gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. I Love Italy su Radio Miami International. Così recita la bella canzone dell'amico Marco Arensi, cantautore milanese. Cari amici e cari amiche, come state? Tutto bene? Torniamo in onda sulle onde corte con una nuova puntata di I Love Italy o Voice of Italy. Ringraziamo tutti gli amici e tutte le amiche che ci hanno inviato dei simpatici rapporti di ricezione. Ho risposto a tutti e presto riceverete la vostra cartolina QSL. Siamo in onda su molte frequenze, sui 15.770 kHz, sui 7.730 kHz e sui 5.850 kHz. Vi invito comunque a visitare il sito doublermi.net, wrmi.net, per avere il quadro generale dei giorni di trasmissione della nostra bellissima trasmissione. E ora cosa dite? Partiamo subito salutando gli amici che ci hanno scritto e ci hanno inviato dei rapporti di ricezione. You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world. Il vostro programma che parla italiano nel mondo. E salutiamo il primo amico che ci ha scritto da una bellissima nazione, dalla Cina. Ci scrive il nostro amico Ding Lun e lui ci invia una bella mail che vi vado a leggere. Cara Radio Double RMI, amo l'Italia, sono un ascoltatore della Cina, oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in italiano dalle ore 01.015 UTC sino alle 01.030 UTC sulla frequenza dei 5.850 kHz. Il segnale è molto forte, l'effetto d'ascolto è molto chiaro. Vorrei richiedere una QSL cartacea, se ci sono souvenir con logo della radio o del programma sarebbe ancora meglio. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: giorno di ascolto 20 marzo 2024, 01.15 UTC, frequenza dei 5.850 kHz, apparecchiatura di ricezione Radio Texun PL310 ET con antenna esterna. Luogo di ricezione città di Jiangxin, provincia dello Jiangsu, Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore. Simpo 434. Mi piacciono molto i programmi della vostra stazione, spero che riceverò la cartolina QSL cartacea del vostro programma. E poi mi scrive anche: è arrivato il momento di marzo, la stagione dei fiori primaverili e del sole. Ho dato un'occhiata al tempo in Italia ed è simile a quella della Cina, con giornate di sole e temperature moderate. Vorrei augurare a te, caro Andrea, una felice primavera. Ti auguro ogni bene. Le mie informazioni di contatto sono le seguenti, mi lascia l'indirizzo. Attendo con ansia una vostra risposta, il vostro amico Ding Lung dalla Cina. E visto che il nostro amico cinese ci ha ricordato l'arrivo anche in Italia della bellissima primavera, io non potevo che parlarvi di una cosa veramente bella che riguarda questa stagione e che riguarda soprattutto la letteratura e la poesia italiana. Di che cosa vi parlo questa sera o quest'oggi, dipende da quando ci ascoltate. Vi parlo di... You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world. Vi ho lasciato un po' in sospeso, quest'oggi, visto che si parla di primavera, l'amico cinese ci ha ricordato questa cosa, vi racconto di una poesia bellissima di Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio, questa poesia meravigliosa. È un'opera che cattura l'essenza della vita quotidiana, la natura effimera della felicità umana. Leopardi, con la sua maestria linguistica, dipinge un quadro vivido di un piccolo paese, come potrebbe essere della vostra nazione, della vostra zona e perché no anche della Cina, che si prepara a far festa perché sta per arrivare la domenica, che rappresenta, come ben sapete, il simbolo del riposo, della gioia, della felicità, del weekend che incomincia. L'attesa e la preparazione per la domenica. Questa bellissima poesia, a mio avviso, è molto molto attuale, perché si potrebbe vedere anche in un contesto magari giovanile. Arriva venerdì, si finisce la scuola, si finisce di lavorare, e allora che cosa fa? Si esce spensierati, allegri, si va in giro con gli amici, in discoteca, in un bar, in un pub, e si è felici proprio perché è terminata la settimana e siamo in attesa appunto della domenica. Questa poesia apre veramente un'immagine bellissima e a mio avviso sempre, sempre attuale. Vediamola un pochino. La poesia si apre con l'immagine di una giovane donna che rientra dalla campagna portando con sé un mazzolino di fiori per adornarsi in previsione del giorno di festa. Quindi porta questo mazzolino di fiori sui capelli, immaginate, si prepara, si agghinda perché domenica è giorno di festa, quindi bisogna... Ai tempi, fine 800, aprile 900, c'era il cosiddetto vestito della domenica, che magari i vostri nonni e bisnonni utilizzavano, che tiravano fuori proprio il giorno di festa per agghindarsi e per festeggiare la domenica. Quindi la poesia si apre così, con questa donzella che arriva dalla campagna con un mazzolino di fiori per adornarsi in previsione del giorno di festa. Questo atto di preparazione è carico di speranza e di anticipazione per il giorno che verrà. Mentre la sera avanza, ci sono gli anziani del villaggio che si riuniscono per filare e raccontare storie di tempi passati. Questi momenti di condivisione evocano veramente una nostalgia per la gioventù perduta e i giorni felici, un po' come capita anche a noi quando ci ritroviamo con gli amici il venerdì sera o il sabato e ricordiamo la gioventù che fu quando si andava in discoteca, quando si andava in giro, si stava in giro anche tutte notte, ora non lo possiamo più fare. Bellissimo questo contrasto che Giacomo Leopardi ci regala tra gioia e malinconia. La gioia perché arriva finalmente il sabato, il weekend, ma al tempo stesso la malinconia, perché poi domenica termina il fine settimana e ricomincia ancora il lunedì, quindi gli affanni lavorativi, i problemi che magari ci siamo lasciati alle spalle. Leopardi contrappone quindi la gioia antica del sabato sera con la malinconia appunto della domenica che seguirà. La festa tanto attesa si rivela essere un preludio alla tristezza e alla monotonia del lavoro settimanale che ricomincerà per l'appunto lunedì. Attraverso questa narrazione Leopardi esplora il tema universale della ricerca della felicità e della sua inevitabile fugacia. Il poeta ci invita a riflettere sulla natura transitoria della vita, sulle piccole gioie che abbiamo saputo cogliere e che dobbiamo cogliere, perché è proprio anche questa cosa, il sabato, la felicità del sabato, perché non si lavora, perché siamo felici, non si studia, non si va a scuola, poi terminerà purtroppo la domenica con il ritorno degli affanni lavorativi della nostra vita che magari abbiamo lasciato alle spalle. In conclusione, il sabato del villaggio di Leopardi è un inno alla gioia di vivere, ma anche un monito sulla brevità. La poesia ci lascia con un senso di dolce malinconia e la consapevolezza che ogni momento di felicità deve essere apprezzato, perché presto sarà solo un ricordo. E questa era I Love Italy di questa bellissima giornata, e ora vi regaliamo proprio la poesia Il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi. Ho cercato di leggervela in qualche modo, scusate eventuali errori. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, per avermi concesso di parlare della mia Italia, di parlare della primavera italiana, di parlare di questo capolavoro, Il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi. Un abbraccio a tutti e sentiamo questa bella poesia. Ciao, ciao da Andrea, buon proseguimento su RMI. Ciao. La lettura della poesia è a cura del canale YouTube La Voce dei Libri. Il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi. La donzelletta viene dalla campagna, in sul calar del sole, col suo fascio dell'erba, e reca in mano un mazzolin di rose e di viole, onde, siccome suole, ornare ella si appresta, di mani al dì di festa, il petto e il crine. Siede con le vicine, sulla scala, a filar la vecchierella, incontro là dove si perde il giorno, e novellando vien del suo buon tempo, quando ai dì della festa, ella si ornava, ed ancor sana e snella, solea danzar la sera, intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno, e torna l'ombre giù da colli e da tetti, al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene, e a quel suon diresti che il cor si riconforta. I fanciulli gridando sulla piazzuola in frotta e qua là saltando fanno un lieto rumore, e intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore, e seco pensa al dì del suo riposo. Poi quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiuol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna, e s'affretta, s'adopra di fornir l'opera, anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia, di man tristezza e noia recheran l'ore, e al travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e cotesta. Altro dir non vo, ma la tua festa, canco tardi avvenir, non ti sia grave. Avete ascoltato Il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi. La lettura è a cura del canale YouTube La Voce dei Libri. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI, Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world. Italy.